restare da sola, lontano dal mondo. Una bambola di stoffa la notte se la teneva in grembo. Figlia di una guerra lei nata sotto le bombe. Figlia di una terra malata, acerbo orizzonte. Aveva tre fratelli nel cuore, per loro un grande dolore. Una ferita ancor prima di nascere, da dover risanare. Un padre, una madre, due statue di lacrime e sale. Una strada polverosa da dover affrontare, senza mai voltarsi, pur sapendo di non poter tornare. Nel cuore speranza malgrado una vita da cane. Nel mondo fiducia malgrado la notte glaciale. Se avesse saputo non avrebbe lasciato il villaggio. Meglio morire tra i propri ricordi che sotto un cielo selvaggio. Amava restare da sola, lontano dal mondo. Ma il destino per certe persone è un ciclo orrendo. Mai una goccia di sole per curare i suoi occhi. Per lei solo una dolce carezza di una madre a pezzi. Aveva tre fratelli nel cuore, per loro un grande dolore. Una ferita ancor prima di nascere, da dover risanare. Un padre, una madre, due statue di lacrime e sale. Una strada polverosa da dover affrontare, senza mai voltarsi, pur sapendo di non poter tornare. Nel cuore una speranza malgrado una vita da cane. Nel mondo fiducia malgrado la notte glaciale. Se avesse saputo non avrebbe lasciato il villaggio. Meglio morire tra i propri ricordi che sotto un cielo selvaggio.